Investire informati. E chi lo sa, intanto raccontatecelo voi cosa state facendo all'800240024. Noi commenteremo anche le vostre idee con i nostri ospiti di questa mattina. È tornata a trovarci Monica Defend, strategist di Amundi. Benvenuta, grazie. Grazie, buongiorno. Per una volta tanto acchiappata dai suoi giri nel mondo, di cui mi raccontava qualche altra curiosità a microfoni spenti poco fa. E poi saluto e ringrazio per essere con noi Fabrizio Fiorini, CEO e vice direttore generale di Ubipra America SGR. Benvenute, grazie. Grazie, buongiorno. Allora, naturalmente possiamo fare tanti ragionamenti questa mattina. Comincerei proprio un po' con un occhio a questa vigilia elettorale italiana. Noi ovviamente non possiamo parlare di nessun tipo di forza politica, nel senso che interessa poco a Due di Denari il tema proprio politico. Ci interessa però nella misura in cui quello che potrebbe essere il disegno politico che emergerà dal voto espresso dagli italiani domenica impatterà sui mercati finanziari. Milano è nervosa oggi, ma nella misura in cui lo sono anche le altre piazze europee, in realtà adesso perde anche meno. Generalmente Milano amplifica un po' il nervosismo delle altre piazze, soprattutto quando il nervosismo si riverbera sul settore finanziario, che in questi giorni in realtà è abbastanza scomparso dal radar dell'interesse degli investitori, almeno a me sembra. Però non siamo quelli a cui piace fare scommesse o previsioni che hanno poi puro sapore speculativo, ma vediamo un po' che cosa ne pensano i nostri ospiti, di cosa si aspetta il mercato dalle elezioni italiane, cosa potrà teoricamente succedere lunedì quando avremo chiarezza di chi potrà e chi dovrà governarci nei prossimi anni. Il mercato, Monica Defend, comincio con un primo commento con lei, non lo possiamo dire ora, però insomma giudizio positivo, negativo o neutro, lunedì mattina secondo lei il mercato che cosa si attende che emerga dal voto di domenica? Al momento il mercato sta apprezzando come un non evento quello che riguarda neutralissimi. Neutrali, sì. E il motivo è legato, penso, alla crescita strutturale che si sta avendo in Italia, se guardiamo a quelle che sono le esportazioni, quindi il recupero in termini di competitività internazionale, la spesa per investimenti da parte delle imprese, il rivolgersi a fonti di finanziamento alternative da parte delle imprese, sono tutti elementi che ci fanno pensare che ci siano dei semi di crescita strutturale che dovrebbero fornire da materasso, se vogliamo, a qualsiasi evento scioccante. È chiaro che all'insegna della continuità delle politiche economiche finora perseguite potrebbe davvero questo consentire, qualora ci sia una fiammata di volatilità, che è probabile, come è successo in altri eventi politici, questa fiammata rimanga comunque contenuta nel tempo e nello spazio. Quindi il tema del materasso ci piace molto. Lei lo vede nelle condizioni macroeconomiche con cui l'Italia accoglie e attende questo appuntamento elettorale, ma ce n'è anche un altro molto importante, che è quello che ci ha fornito la Banca Centrale Europea in questi ultimi anni. Fabrizio Fiorini, allora, grazie a questo materasso e grazie al fatto che la Banca Centrale Europea si è acquistata un sacco di titoli di Stato italiani nel suo programma di quantitative easing, ovviamente non l'ha fatto solamente con i titoli italiani ma con quelli anche di altre economie, noi oggi guardiamo anche grazie a questo appuntamento elettorale con maggiore serenità. Ce lo spieghi lei un po' che cosa è cambiato rispetto per esempio all'estate dello spread, quella del 2012, quando il differenziale di rendimento fra l'Italia e la Germania volò alle stelle, sempre per le tensioni politiche che in quel periodo c'erano nel nostro paese, ma in quel momento i titoli di Stato italiani erano un po' più, diciamo, in circolazione. Adesso lo sono un po' meno, e questo quanto ci protegge? Intanto ci racconta un po' i numeri di questa situazione? Beh sì, direi che ricordando il 2011, allora il problema era più un problema di rifinanziabilità, cioè di una difficoltà che il governo italiano stava incontrando nel rifinanziare il proprio debito, che era estremamente elevato. Allora parlavamo di 1,7 trilioni di euro. Allora la rifinanziabilità e il rischio di rifinanziabilità in una situazione di grande stress finanziario era legato al fatto che gli stranieri avevano in mano il 53% del debito pubblico italiano, cioè in termini di numeri 890 miliardi di euro. La situazione negli ultimi anni è radicalmente cambiata, cioè 7 anni siamo passati, un po' grazie alla presenza della Banca Centrale, ma anche grazie all'intervento degli italiani, a una situazione completamente diversa. La Banca Centrale oggi, di quello che è un debito che comunque è cresciuto in termini numerici a 1,9 trilioni di euro, 250 milioni sono in mano alla Banca Centrale Europea, e quindi i privati si devono spartire la rimanente parte. Di questa parte soltanto 500 miliardi oggi sono in mano agli stranieri, il che vuol dire che oggi ci troviamo che solo il 26% del debito pubblico è in mano agli stranieri contro il 53% di 6 anni fa. Questo ovviamente ci espone a una minor volatilità, perché ovviamente queste posizioni iniziano ad essere un po' più strutturali, più legate alla presenza di un benchmark, più legate alla necessità di avere una diversificazione in Italia e quindi meno pressate nel momento in cui ci deve essere volatilità e condizionate da una vendita forzosa. Questo riduce significativamente la volatilità in caso di eventi ovviamente che non siano estremi. Certo, quindi da questo punto di vista è certamente un fattore positivo nella riduzione della volatilità. Dall'altra parte però ricordiamo che questa situazione ha generato uno schiacciamento verso il basso e anche in territorio negativo dei rendimenti dei titoli di Stato su tantissime scadenze, soprattutto sulle brevi. Ecco, questa è una situazione, Fiorini, estremamente anomala che ancora molti piccoli risparmiatori fanno fatica a comprendere fino in fondo. Quanto durerà, secondo lei? Allora, intanto i risparmiatori italiani per certi versi dovrebbero essere contenti, perché se fossero tedeschi si troverebbero in una situazione ben peggiore. Quindi noi abbiamo rendimenti compressi per la nostra storia, in termini assoluti rimaniamo il paese con i rendimenti più elevati in Europa, quindi la mia impressione è che questa situazione perduri e perdurerà, perché anche in ipotesi che i rendimenti tedeschi inizino a salire, comunque l'Italia, proprio per questo buffer di rendimento che continua a mantenere, potrà rimanere sugli attuali livelli di rendimento. Quindi abituiamoci a questo livello che ci accompagnerà probabilmente ancora per i prossimi anni, anche in un contesto europeo di rialzo dei rendimenti. E consideriamo una cosa, questa situazione, che per certi versi non piace molto agli italiani abituati a risparmiare in BTP, in realtà favorisce di molto la situazione finanziaria dello Stato, perché il governo italiano e lo Stato italiano si trova a pagare spese per interessi molto molto inferiori a quelle che pagava fino a qualche anno fa. Esatto, e tra l'altro ricordiamoci anche che in questi suoi ultimi mesi di attività, perché credo stia andando in pensione, la dirigente del Tesoro Maria Cannata ha fatto anche un'altra grande operazione, che è stata quella di provare ad allungare la durata del debito, e anche questo è stato un altro aspetto positivo che mette in una condizione di un po' più sicurezza rispetto agli anni passati, anche se abbiamo ancora uno stock gigantesco, Monica defende, che è comunque abbastanza ingestibile in teoria. Ma infatti, la vita media adesso, la durata media del debito italiano è sui 6,9 anni, sì, 7 anni. Quindi, ma nel complesso, se abbiamo crescita, questo rende comunque l'Italia meno fragile. Esatto. E quindi anche la spesa per interessi dovrebbe progressivamente scendere, grazie ai tassi che sono scesi fino adesso, e questo non si è ancora trasmesso su tutto l'intero stock. E ci dovrebbe mettere nella condizione di poter affrontare anche tassi di interesse in salita. Certo. Però lo spread, abbiamo visto che in qualche maniera ogni tanto qualche piccolo segnale di nervosismo, anche in relazione a dichiarazioni un po' che circolano di esponenti politici di primaria importanza in Europa, qualche segnale lo manifesta. Stamattina siamo sui 130 punti base, ma non ci è voluto niente perché arrivasse a 140 la settimana scorsa, quando Juncker, appunto il presidente della Commissione Europea, ha detto: bah, non sono tanto sicuro di questo governo italiano che potrà essere così, di cui potrà essere fatto l'identikit lunedì prossimo, siete ancora molto vulnerabili da questo punto di vista. Insomma, dichiarazioni che in realtà non avevano neanche un sapore particolare, ma che hanno subito contribuito a riportare all'attenzione generale appunto il tema spread differenziale fra Italia e Germania. 140 punti base non significano nulla rispetto ai 570, certo. Però ogni tanto qualche segnale di nervosismo lo rimanifesta. Però questo rientra in un contesto di umori variabili. Se, per contro, se andiamo a guardare cosa è successo al 2 di febbraio, quando c'è stato il grosso sell-off di mercato, gli spread dei periferici hanno tenuto. Perché? Perché la situazione è strutturalmente migliore dal punto di vista dei fondamentali. E c'è sempre il paracadute della Banca Centrale Europea. Complessivamente però c'è questo contesto, Fabrizio Fiorini lo segnalava prima, di rialzo dei rendimenti su alcune scadenze. Allora, in questi giorni il nostro focus, anche se non so quanti italiani investano, magari lo fanno sicuramente con fondi diversificati sul mercato americano, ma abbiamo il decennale statunitense che comincia a rimanifestare appunto segnali di rialzo in questo senso. Siamo intorno al 3% di rendimento. Per spiegarla ai nostri ascoltatori, Defend, cosa ci dice questa soglia, questa percentuale? Questa soglia ci dice che in America la crescita sta accelerando, una crescita buona, e anche l'inflazione sembra dare qualche segno di ripresa. Tutto questo è assolutamente sano nel contesto attuale. Powell, il nuovo governatore della Banca Centrale, è stato molto chiaro nel suo discorso, ha detto c'è crescita, tra l'altro crescita inserita in un contesto sincronizzato di crescita globale, l'inflazione si sta riprendendo ma in maniera molto misurata, ci possiamo aspettare inflazione che venga dai salari. Questo era il grosso tassello mancante, e anche se ci sarà della volatilità, questa crescita non verrà compromessa. Quindi, diciamo, il fieno in cascina c'è. Perché ci preoccupa un 3% di tasso? Che intanto anche lì è una soglia psicologica. Noi abbiamo fatto delle analisi storiche, abbiamo visto che oltre il 3,5% ci potrebbe essere qualche instabilità sul mercato. Perché? Perché le azioni sono arrivate a delle valutazioni estremamente tirate. Cosa vuol dire? Che il rendimento relativo, se devo investire in obbligazioni o in azioni, nel momento stesso in cui il Treasury, il tasso governativo americano, dovesse diventare appetibile, beh, allora avrei un grosso spostamento degli investitori nei mercati emergenti, degli investitori nel credito, degli investitori nell'azionario, e questo potrebbe portare a una stabilità finanziaria. Ma ancora una volta Powell che cosa ci ha detto? Che è importante l'inflazione, sì, ma lui si preoccuperà anche della stabilità finanziaria. Quindi tutto sommato l'importante è che i tassi salgano in maniera moderata e a fronte di una crescita e un'inflazione effettive, senza dare degli scossoni repentini, certo, perché è quello che fa poi male ai mercati. Voglio coinvolgere entrambi proprio su questo aspetto. Fiorini, ricomincio da lei. Eppure questo mercato, quando intuisce che i tassi di interesse americani possano aumentare 4 volte invece di 3 in questo 2018, mamma mia, succede sempre il finimondo, ed ecco che si riscatenano le vendite che riguardano in particolar modo il mercato obbligazionario, ma il fermento c'è anche appunto dall'altra parte nel segmento obbligazionario. Ma è un problema così grosso il fatto di farne 4 invece che 3? Non è che Powell o altri dicano ne facciamo 15 invece di 3? Cioè, la differenza di uno è così rilevante anche per voi investitori, insomma per voi operatori professionali? No, direi che il ragionamento è corretto, si scontra con un posizionamento di molti investitori che utilizza questo ragionamento. Effettivamente, se ne avremo 4 di rialzi, come io posso anche ipotizzare, in realtà li avremo perché le condizioni economiche sono in miglioramento. Se sono in miglioramento dal punto di vista reale, da questo punto di vista è un trade-off che io accetterei volentieri. Ho maggiori garanzie di crescita economica e di stabilità dell'economia per avere un costo del denaro 25 centesimi più alto, accettabile. Se abbiamo un po' di inflazione, paradossalmente siamo in una situazione in cui il mondo ha un problema di debito elevato e l'inflazione è la cura, ancor più che il problema. Quindi anche in questo caso probabilmente andiamo a sanare situazioni, l'Italia è il massimo esempio in questo senso, andiamo a sanare indirettamente situazioni di elevato debito che altrimenti diventerebbe ingestibile. È che molto spesso gli investitori dimenticano da dove vengono, e fino a un anno e mezzo fa il problema era quello della deflazione. Oggi che abbiamo un po' di inflazione non ci siamo abituati, e quindi iniziamo a spaventarci di quel po' di inflazione che viene fuori. Siamo stati abituati a banche centrali che facevano sempre meno delle aspettative del mercato, e nonostante che la Banca Centrale Americana in particolare cerchi di condizionare spiegando e anticipando molti suoi movimenti, oggi che siamo noi investitori, o molti investitori che devono in realtà fare un po' di più delle proprie aspettative per seguire la Fed, si trovano un po' spiazzati. Quindi è questo cambiamento di regime che sta confondendo gli investitori molto spesso, perché tendono a comportarsi in prospettiva guardando con lo specchietto retrovisore. In realtà oggi la situazione è diversa: più accettabile l'inflazione più alta, più accettabile i rendimenti più alti, perché stiamo avendo una crescita che è qualitativamente e quantitativamente migliore. Quindi io penso che sia un trade-off assolutamente accettabile. Sono investimenti fatti in passato utilizzando uno schema mentale vecchio che oggi sono stati messi in difficoltà. Molti fondi avevano queste gestioni a rischio lunghe di posizioni sulle obbligazioni e anche di posizioni sull'azionario. Con movimenti come quelli che stiamo registrando si trovano ad avere perdite sugli investimenti obbligazionari e nessun guadagno su quell'azionario. Quindi la strategia non sta in piedi e molti sono costretti ad applicare stop loss. È ecco la ragione principale della volatilità di oggi, non delusione di mercato, non delusione della Banca Centrale Americana, ma conseguenze di alcuni eventi su portafogli impostati male, impostati sulla base di scenari del passato che non sono più quelli del futuro. Defendele, che ne pensa? Insomma, 3 o 4 rialzi dei tassi in America, perché in certi momenti per qualcuno rappresenta un problema questo fattore, o anche questo è un tema su cui avere un atteggiamento neutrale? Ma io penso che sia stato ampiamente spiegato dal collega il motivo per cui si crea questa insofferenza. Dal nostro punto di vista, noi vedevamo questo cambiamento di regime. Ti ricordi quando ci siamo visti a settembre, credo, e dicevamo: noi ci aspettiamo di passare da un regime di reflazione, in cui le banche centrali continuano a pompare liquidità nel sistema, a un regime di ciclo finanziario maturo, e ci aspettavamo che questo sarebbe accaduto più o meno a marzo di quest'anno. Qual è la grossa differenza? L'atteggiamento delle banche centrali. Quindi noi pensavamo a una crescita che sarebbe stata globale, sincronizzata, un'inflazione che sarebbe cresciuta ma sarebbe comunque rimasta sotto i livelli di target delle banche centrali, e le banche centrali che progressivamente avrebbero ricalibrato le proprie politiche monetarie. La conseguenza di investimento cos'è stata? Che a partire da ottobre, novembre dell'anno scorso abbiamo cominciato a ruotare i rischi, e per esempio, anziché essere in sovrappeso di azioni, abbiamo preferito un posizionamento relativo, cioè andiamoci a concentrare su quelle storie che, non so, può essere il Giappone verso i paesi emergenti, può essere l'Europa verso l'America, dove riconosciamo un premio per la crescita, una crescita degli utili aziendali superiore che può espandersi ulteriormente. Andiamo a sfruttare proprio questo diverso posizionamento lungo il ciclo economico e dei fondamentali aziendali. In questo modo tu l'esposizione all'azionario ce l'hai, ma è calmierata e il rischio è ben bilanciato. Certo. Quindi ha proprio ragione, bisogna cambiare la logica di costruzione dei portafogli. Sono cambiati molti paradigmi rispetto al passato, allora però mi rendo conto che per molti ascoltatori tutti questi argomenti possono apparire complessi, però bisogna che ci impegniamo un po' anche a capire queste dinamiche internazionali, perché poi ricadono direttamente anche nelle scelte di investimento personali che facciamo. Per cui se qualche aspetto non vi è chiaro, fateci delle domande molto esplicite, perché noi siamo qui anche per aiutarvi a comprendere i concetti meno chiari, per l'appunto. E quindi 800 24 00 24, mano alla cornetta, noi qua ci siamo. Se volete scriveteci al 349 238 6666. Un paio di domande ci sono, riguardano proprio tutte la questione della politica monetaria un po' più severa. Un ascoltatore all'SMS ci scrive qualcosa a proposito del comportamento delle banche, adesso ve lo leggo, e un altro ascoltatore invece vuole sapere, Giuseppe da Rimini, cosa succederà quando la BCE smetterà di comprare i bond dei periferici, quindi quando proprio si chiuderanno le serrande del quantitative easing. Ci sono delle scadenze temporali già preannunciate molto dettagliate. Giuseppe, adesso faremo anche un riepilogo di tutto ciò. A tra pochissimo, adesso i mercati e la giornata. Due di denari. Il denaro gira in questo periodo e lo vediamo anche dalla forte volatilità che manifestano i mercati finanziari internazionali. Vi abbiamo raccontato poco fa di questa nuova seduta all'insegna dei ribassi. Stavamo analizzandone le ragioni con Monica Defende, perché è qui in studio, ma adesso condividiamo i nostri ragionamenti anche con Fabrizio Fiorini. I cali sono attribuiti stamattina a queste rilevazioni fatte nell'ambito manifatturiero europeo, che non sono particolarmente brillanti. Peraltro ce n'è anche uno interessante stamattina, mi incuriosiva questo dato, che è quello relativo all'attività manifatturiera cinese, che invece a febbraio ha registrato la sua crescita più forte in 6 mesi. Questo lo dice l'indicatore Caixin, che è un barometro completamente diverso rispetto a quello ufficiale del governo, che invece nell'ultima rilevazione mostrava un rallentamento del settore. Oppure non si mettono d'accordo: se c'è la rilevazione privata, quella è migliore rispetto a quella ufficiale del governo. Comunque questo elaborato questa mattina, divulgato questa mattina, ci racconta che però c'è un andamento superiore ai 50 punti, che come sapete è la soglia che attesta la differenza fra l'espansione economica e la contrazione economica, per cui in realtà in Cina pare che siamo in una condizione di espansione economica, e per fortuna, perché se vanno bene là ci tirano dentro tutti. Allora, no, ma parlavamo di uno scenario macroeconomico globale solido, Monica defende. Queste statistiche di stamattina in Europa sull'andamento del comparto manifatturiero oggi ci dicono un pochino il contrario, un po' di segnali di rallentamento. Sono questioni temporanee? Io parlerei più di un consolidamento a seguito di a fronte di una espansione precedente, per cui sinceramente non mi preoccupa molto. Mi interessa molto la parte di spesa per investimenti, la cosiddetta CAPEX delle aziende, perché se le aziende cominciano a investire, allora lì vuol dire che vedono le possibilità di crescita, hanno meno incertezza nell'investire per il futuro, e questo è molto positivo per la crescita degli utili. Spendono molto per investimenti. Sì, fino adesso hanno cominciato l'anno scorso, più o meno verso marzo-aprile, e in particolare nel settore delle aziende legate al petrolio. Adesso vediamo che questa intenzionalità di spesa si è allargata a più settori. È importante perché nel momento in cui cade l'argomento di investo in azioni perché i tassi di interesse non rendono nulla, adesso io investo in azioni se ci sono degli utili, quindi a fronte di una crescita reale. Per cui secondo me il grosso cambiamento di paradigma che ci sarà nel momento stesso in cui le banche centrali saranno meno accomodanti e ricalibreranno la propria politica monetaria sarà proprio andare a guardare la qualità di questa crescita, come menzionavamo, in particolare la crescita degli utili. Franco da Bologna, benvenuto all'800240024. Ah, ecco, proprio last minute si è aggiunta anche Benedetta da Pavia. Ci fa molto piacere. Franco, iniziamo da lei, che era già prenotato da buongiorno, prima della pausa. Deborah, buongiorno Debora. Buongiorno. Devo dire che l'ascolto tutti i giorni e oltre alla simpatia è molto chiara ed è competente. Pensavo che mi dicesse che sono anche bellissima, però Franco, pazienza, me ne farò vedere, una ragione. Non la posso vedere. Va benissimo Franco, dunque, molto affettuoso, grazie. Ci dica. Dunque, io sono posizionato sull'azionario per il 70% del portafoglio, però non in azioni, ma in fondi comuni azionari, in Cina, Giappone, Europa, paesi emergenti. Volevo chiedere se è cambiato il sentiment o se posso star tranquillo. Poi le volevo fare una preghiera per lei. Quando alle 9 ci dà l'apertura dei mercati, sì. Potrebbe dire anche l'Asia, cioè sì. Giappone, la Cina, sa Franco, se che non cosa? È un problema. No, ma non c'è nessun problema, noi raccogliamo ovviamente le vostre richieste, lo facciamo sempre ben volentieri, che quel collegamento lì è inserito nel contesto di un giornale radio molto breve, quindi devo essere assolutamente flash. Le prometto che magari ci proverò nel collegamento delle 10:30 ad essere un po' più esaustiva, però io la ringrazio perché significa che siete veramente molto affezionati e che ci tenete a che gli appuntamenti siano completi. Franco, allora, il tema è, lei ha già una grandissima diversità. Allora, ricordiamo sempre la regola di base, che tutti i vostri portafogli sono costruiti in base alle vostre esigenze personali, agli obiettivi che vi siete costruiti con il consulente finanziario che vi accompagna, e questo noi lo diamo per assodato, Franco, che lei abbia fatto delle scelte coerenti con i suoi bisogni e quelli di tutto il suo nucleo familiare. Detto ciò, ha deciso di diversificare in questa maniera il suo portafoglio. In questo momento 70% nel settore azionario, però sull'obbligazionario adesso sarà il caso di cominciare ad aumentare delle quote, e perché? Fiorini, allora, venisse Franco da lei a chiederle una consulenza, da dove partirebbe per esaudire appunto i suoi bisogni, i suoi desideri? Allora, diciamo che partirei dando una risposta a quella che era stata la sua prima domanda. È cambiato il sentiment? Che sia cambiato il sentiment penso sia innegabile, cioè una volatilità nei primi due mesi dell'anno che probabilmente abbiamo visto una volta nel 2015, poi dobbiamo tornare indietro alla crisi del 2011 europea, quindi una situazione molto particolare che dimostra una vulnerabilità del mercato maggiore e un cambiamento di sentiment. Che il cambiamento di sentiment in realtà ci dica anche qual è il cambiamento effettivo della situazione economica o di mercato, questo no, nel senso che abbiamo una maggior pericolosità nell'investimento azionario, ma l'andamento sottostante dell'indice sarà più legato ai fondamentali macroeconomici e di utili, e questi non hanno subito modifiche negli ultimi due mesi, non è successo niente che metta in discussione il trend di crescita ed economico. Di di certo questi due mesi ci devono insegnare qualcosa, ci devono insegnare che un posizionamento al 70% di investito azionario, che poteva essere giusto negli anni, negli ultimi 3-4 anni, nei prossimi 3-4 anni non è un'impostazione corretta, proprio perché la volatilità aumenterà, la vulnerabilità a dinamiche diverse, dei tassi di interesse piuttosto che a sviluppi politici o anche a un rallentamento cinese, che io vedrei come estremamente probabile, ma anche in questo caso da connotazione positiva, ovvero salutare, genereranno impatti su tutti gli altri mercati, quindi non è più il tempo per il prossimo triennio di avere un portafoglio uguale a quello che abbiamo avuto negli ultimi 3 anni, perché quindi cambiano le condizioni. Un po' di manutenzione va fatta. Esatto, non è che perché abbiamo avuto risultati con un atteggiamento negli ultimi 3 anni dobbiamo tenerlo nei prossimi, non dobbiamo cambiare semplicemente perché il sentiment è cambiato, perché il sentiment, come è diventato negativo nei primi 2 mesi, potrebbe cambiare nei prossimi 3, però di certo una sveglia importante questi 2 mesi ce l'hanno data, e che i prossimi 3 anni non saranno sicuramente uguali ai precedenti. Allora, ad un ascoltatore non piace la parola sentiment, che è stata introdotta dall'ascoltatore, parliamo di clima, di umore, chiamatelo come volete, chiamiamolo clima generale. Monica Defende, lei un suggerimento per il nostro amico da Bologna? Ma mi legherei a quanto diceva Fiorini, c'è stato un cambiamento di paradigma come volatilità, cioè se c'è meno liquidità. Cosa che peraltro vi aspettavate tutti, sì, che già nella seconda perché parte è matematico, cioè fa parte dell'idraulica dei mercati. Se la banca centrale mette meno liquidità, vuol dire che la volatilità si alza, e se la volatilità si alza, i rendimenti aggiustati per il rischio, quindi rendimento diviso volatilità, diventa più basso. La banca centrale ha fatto da ammortizzatore sociale adesso ad ogni scossone, non c'è niente da fare. Se quello viene a mancare, da qualche parte la cinghia di trasmissione si deve sfogare, no? Sì, volevo solo aggiungere una considerazione sull'allocazione regionale, su cui mi trovo d'accordo, quindi i paesi emergenti, l'Europa, il Giappone sono aree geografiche su cui siamo costruttivi, proprio perché lì vediamo ancora del potenziale di crescita da sviluppare, sia a livello macro che a livello di utili, quindi quella è una scelta che mi sento di sottoscrivere. Sicuramente quando parlavo di rotazione dei rischi, esposizione relativa piuttosto che direzionale, intendevo proprio questo: forse il 70% di investito in azioni è troppo, abbassiamolo, ma concentriamoci su scelte di tipo relative, macro fondate, quindi andando a guardare i fondamentali macro. Una cosa che abbiamo notato in particolare in questo frangente di mercato è stato il ruolo delle valute, come le valute di fatto siano stati degli strumenti di buona copertura, il dollaro canadese, lo yen giapponese, il dollaro australiano, a fronte della volatilità di mercato. Quindi facendo una gerarchia di strumenti possibili per coprire l'esposizione rischiose, le valute, i derivati, ma lì diventa già una cosa più da investitore, complesse, più, certo. Sì, per cui mi affiderei sicuramente a chi fa questo mestiere, a chi gestisce il risparmio, quindi valute e l'utilizzo di derivati sono di fatto le cose che hanno funzionato meglio. Allora, che hanno funzionato meglio, ma questo non significa che siano adatte appunto ad un piccolo risparmiatore, a meno che non siano all'interno di gestioni gestite appunto professionalmente. Allora, c'è il traffico adesso, lo so Andrea, però volevo fare anche il domandone, me la mandi la sigletta? Ce l'hai pronta lì? Devo far studiare al volo gli ascoltatori stamattina. Volevo sapere se sanno, gli amici che ci seguono da casa, quanto guadagna Milano dall'inizio dell'anno e quindi come si presenta a questo appuntamento elettorale. Il bilancio è positivo. Ve lo faccio raccontare al netto di quello che succede stamattina, perché con quello che succede oggi un po' la prestazione viene ridimensionata e risicata, ma dovrebbe essere, è ancora positiva. Per cui 800 24 00 24, andate un po' a vedere il FTSE MIB da inizio 2018, quanto è riuscito a portare a casa. Adesso velocissimamente il traffico. Due di denari. Ah, così a tradimento me lo rimetti, Andrea. Quanto guadagna Milano dall'inizio dell'anno? Quanto è positiva la prestazione, perché è positiva appunto, del FTSE MIB? Non sono delle prestazioni mirabolanti, ma ancora Milano riesce a conservare un bilancio inattivo dall'inizio del 2018, anche se oggi con questo punto percentuale di perdita ne brucia un bel po'. 800 24 00 24 per rispondere a questa domanda, ma nel frattempo abbiamo anche altri due ascoltatori. Volevo sentire quella di Severino, che non so, da provincia imprecisata. Severino, buongiorno. Buongiorno. Allora, tema obbligazionario anche con lei. Tema obbligazionario anche con me. Io ho due titoli nazionali, uno scadente nell'agosto del 2034 e l'altro penso nel febbraio del 37. Attualmente sono quotati il primo a 119, il secondo a 132 circa. Volevo sapere dai vostri ospiti se, alla luce delle prossime elezioni, che probabilmente non, dalle quali non sortirà un governo stabile o comunque un qualcosa di positivo per l'Italia, almeno nel breve periodo, se non ci possano essere delle turbolenze in base alle quali questi titoli possono subire una diminuzione notevole, e se i vostri ospiti mi consigliano, considerata anche la lunga scadenza, di tenerli oppure di vendere. Questo, Severino, se lo fanno, picchio entrambi. Non possiamo dare suggerimenti di acquisto o vendita. Sicuramente possiamo fare delle come dire, simulazioni mentali rispetto a quello che potrebbe essere l'oscillazione dei prezzi di questi titoli, ma a prescindere secondo me dalle elezioni di questo weekend, il tema è che scadenze così lunghe sono per natura molto volatili, in particolar modo perché sono molto condizionate anche dai temi che abbiamo affrontato fino ad ora, dalle politiche monetarie. Allora, Fabrizio Fiorini, la esonero ovviamente dalla seconda parte della domanda perché noi non possiamo assolutamente prenderci queste responsabilità, Severino ne parli con il suo consulente, però sulla prima parte della domanda possiamo rispondere in maniera ragionevole. Diciamo che le elezioni sicuramente avranno un impatto sulle dinamiche di prezzo di questi titoli, avendo questa una scadenza molto lunga, la loro sensibilità allo spread, perché in questo caso parliamo di spread, perché le elezioni incideranno su quella parte di rendimento, possono essere significative. È molto opinabile il discorso di dalle elezioni uscirà uno scenario diciamo non positivo per i lui sa, Severino si vede che è appassionato di politica, già fatto i suoi exit poll. Non dobbiamo confondere le nostre aspettative personali con quelle che sono le aspettative di mercato. In questo momento il mercato si accontenterebbe di non avere una situazione diciamo dannosa per quelli che sono i suoi parametri. Paradossalmente un impasse politica quasi potrebbe essere qualcosa di positivo per i BTP, perché questo potrebbe portare l'Italia a legarsi di più all'Europa o a dipendere di più da quelli che sono i condizionamenti europei, e per gli investitori internazionali questo non ha una connotazione negativa. Quindi il giudizio personale dell'italiano in questa fase potrebbe essere un po' diverso da quello dell'investitore internazionale. È certo che le elezioni un po' di volatilità la porteranno, ma non dimentichiamoci che la volatilità ha due segni, positiva o negativa. Potremmo anche trovarci che quella volatilità si trasforma in una buona performance del BTP. Io personalmente ho un'aspettativa positiva sull'andamento del BTP nei prossimi sei mesi. È ovvio che chi compra scadenze a 20 anni ha in mente che quello che succede nei prossimi 20 giorni non dovrebbe interessargli più di tanto, quindi dovrebbe guardarsi le elezioni con tranquillità a casa e non andare a vedere lunedì pomeriggio quello che hanno fatto i BTP. Infatti, no, anche perché poi se si è così suscettibili anche dal punto di vista emotivo come risparmiatore a queste oscillazioni, una scadenza così lunga magari la si dovrebbe lasciare in banca e non sottoscrivere, oppure se la si sottoscrive si deve essere molto consapevoli al fatto che rispetto alla loro solidità del passato i BTP oggi sono di umore, no? Monica Defende un po' più variabile proprio per il contesto internazionale. A proposito di questo, io a Monica Defende io devo far fare, perché so che le piace e ci piace fare sempre questi giri ideali nel mondo insieme a lei. So che lei appunto è una grande appassionata di mercati emergenti, lei, tu, vabbè, ci diamo del lei pubblicamente, del tu in privato, però insomma, quali sono le aree che in questo momento le piacciono particolarmente e su cui state concentrando magari un'attenzione un po' più forte, quelle aree delle quali si parla poco anche quando si viene in radio perché non vanno tanto di moda, ma che in realtà per un investitore professionale ma anche privato sono comunque interessanti? Ma in generale, distinguendo tra azionario e obbligazionario, continuiamo a preferire l'azionario asiatico e paesi come la Cina, la Russia, l'India, o l'obbligazionario latinoamericano, perché comunque ancora ci sono dei differenziali di rendimento significativi e che a fronte di rischi che a nostro modo di vedere sono contenuti. Comunque la chiave di lettura e di investimento che stiamo seguendo è proprio quella all'insegna della qualità, e quindi andare a cercare quei paesi che in questi anni di bonanza sono riusciti a mettere a posto le loro finanze pubbliche, l'esposizione verso l'estero, le proprie riserve, e in modo da far fronte a tassi di interesse americani che cresceranno, o un dollaro che potrebbe comunque rafforzarsi. È stato interessante in queste ultime 3 settimane vedere come si sono comportati i mercati emergenti a fronte di tassi di interesse che salivano in America, ma di un dollaro che comunque rimaneva sostanzialmente debole. Quindi i paesi emergenti se hanno corretto, ma hanno corretto in maniera contenuta, a parte la Cina, ma lì era proprio un problema di stagionalità, di chiusura del loro calendario e di inizio dell'anno nuovo. Quindi i paesi emergenti, laddove si ricerchi la qualità, sono sempre un'interessante opportunità di investimento, e che permette di giocare quel valore relativo che permette di essere esposti ai rischi in maniera mitigata, se vogliamo, e comunque aggiungere valore ai portafogli. Allora, c'era Ilsa da Genova che voleva intervenire su un suggerimento che le hanno dato in banca, che non ci convince particolarmente. Ilsa, noi stiamo chiudendo la trasmissione, sarebbe un po' lunga affrontare questo tema con lei. Prendiamo il suo numero di telefono e la contattiamo in una puntata che faremo a breve sul tema. L'hanno chiamata dalla banca dicendole che i titoli di Stato che è in portafoglio hanno qualche problema. Adesso bisognerebbe capire la natura appunto di questa telefonata. Per il resto abbiamo il domandone. Sentiamo Enzo dalla provincia di Arezzo. Quanto guadagna Milano da inizio dell'anno, Enzo? Il 4%. Vediamo un po' se Pierluigi da Milano è in grado di essere un po' più preciso, anche se Enzo ci è andato vicino. Buongiorno, 3,45. Bravo, lei ha letto il Sole 24 Ore, pure è andato a caccia. È prima pagina, perché ci sono sempre le tabelle ogni giorno. Pierluigi, grazie, le manderemo naturalmente un libro della nostra fornitissima biblioteca con le nostre guide. Grazie ad entrambi, sia ad Enzo che a Pierluigi, magari la mandiamo anche ad Enzo, perché così siamo bravi. Non siamo riusciti a rispondere all'ascoltatore che chiedeva quando la BCE terminerà il suo programma di acquisto. Beh, settembre di quest'anno, intanto tra chiude. Settembre e dicembre. Esatto, per cui rifaremo un'altra puntata sugli effetti di tutto ciò sui titoli di Stato. Grazie Monica Defende, vediamo un po' lunedì che cosa succede. Grazie, buona, arrivederci. Fiorini, tutti. A presto, grazie anche a lei, buona giornata. Arrivederci. Noi torniamo domani con l'ultima puntata della settimana che mi vede in questa versione single senza Mauro Meazza, che salutiamo. Mannaggia a me, mannaggia a te. Vedi di tornare presto, Mauro. Ciao a tutti.